L'amore che abbiamo visto prima non vale solo per noi e Gesù, ma vale anche per noi e per le persone con cui ci interfacciamo, le persone da cui ci facciamo influenzare. Stiamo scegliendo chi influenzare, da chi farci influenzare, ma soprattutto come influenzare gli altri, come farci influenzare dagli altri. O stiamo vivendo i nostri rapporti in maniera passiva? Gesù in Matteo 16,18 dice che sarà proprio lui che fonderà la sua chiesa e Satana non la potrà sconfiggere. Però quello che noi possiamo fare è rendere la chiesa di Dio inefficace. Vogliamo rendere vano per quanto c'è possibile il sacrificio di Gesù per noi o vogliamo far sì che porti più frutto possibile? Vogliamo rendere la sua chiesa inefficace influenzandoci in maniera negativa e quindi portandoci da tutt'altra parte che da Gesù, oppure dando un'immagine di Gesù sbagliata a chi ci guarda. Perché noi siamo l'immagine di Gesù, le persone attraverso noi vedono chi è Gesù dentro di noi. Quindi, vogliamo essere intenzionali nei nostri rapporti. Cosa significa intenzionali? Che abbiamo un obiettivo nei nostri rapporti di amicizia. Non siamo amici giusto per essere amici, giusto per essere compagnoni. Ma vogliamo portare Gesù nelle nostre relazioni, vogliamo rispecchiare Gesù attraverso le nostre relazioni. E questo parla di integrità. E il significato di integrità, ve lo voglio leggere, significa fare ciò che è giusto anche se nessuno ti sta guardando. È controcultura Gesù, eh? Fare ciò che è giusto anche se nessuno ci sta guardando. La società ci dice di fare ciò che è giusto quando tutti ci guardano. Perché in questa società la società della meritocrazia, vengono più premiate le azioni che le intenzioni. Ma Gesù guarda il nostro cuore, Gesù ha veramente una mentalità controcultura, guarda il nostro cuore, non guarda solo a quello che facciamo, guarda soprattutto al nostro cuore. E da qui ricaviamo un principio molto importante, che è quello di piacere a Dio e non solo agli altri. E questo lo troviamo nel prossimo versetto. In 1 Pietro 2, 15-16 c'è scritto: perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Lo rileggiamo. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Gesù non vuole che ci serviamo della libertà come un velo per coprire le nostre intenzioni che in realtà non sono buone. Ti stai comportando in maniera tale da piacere a Dio? Stai lavorando sui tuoi pensieri, quelli che gli altri non possono vedere, gli altri non ti possono leggere nella mente. Però Gesù sì, guarda i tuoi pensieri, prova il tuo cuore. Il tuo modo di parlare, di pensare, di agire, influenza le persone che ti stanno intorno. Non pensare che stai influenzando solo quando stai parlando così, magari con un microfono. Magari io così sto influenzando voi, ma io influenzo voi anche quando non ho un microfono in mano. Anche quando voi mi guardate e guardate quello che faccio, quello che dico, gli atteggiamenti che ho nei confronti delle altre persone. E così è per tutti noi. La nostra vita è il nostro palco con cui possiamo influenzare le persone che ci stanno intorno. Quindi, ti stai spingendo a portare le persone a Gesù? Oppure ti stai servendo della sua parola per portare le persone a te? Il confine è sottilissimo. Sono le stesse azioni, ma le intenzioni sono completamente diverse. E questo porta a un risultato diverso. Quindi, Dio sta guardando al tuo cuore e sta guardando anche a come tu ti rapporti agli altri. Tu mi dici, vabbè Nella, ma io non ho nessuno da influenzare, sono una persona sola, non ho nessun amico, tutti mi scansano, nessuno mi vuole. Ma ti stai impegnando ad essere un buon amico prima di cercare un buon amico? Sii tu un buon amico prima di pretendere dagli altri amicizie sincere. Ti stai impegnando ad essere questo? Io ho avuto veramente la benedizione nella mia vita di avere persone che hanno influenzato la mia vita in maniera sana, che mi hanno spinto sempre di più verso Gesù, che quando avevo un atteggiamento un po' così mi dicevano Nella, però questo non è proprio giusto. Però io ho anche scelto di dare il lasciapassare a queste persone, di entrare nella mia intimità, di potermi dire Nella, stai sbagliando, senza ritirarmi. O... cioè, non fa piacere a nessuno che una persona ti dice stai sbagliando. Ma chi sei tu per dire che sto sbagliando? La prima reazione che ci viene. Però apriamo il nostro cuore, diamo il lasciapassare alle persone di poter entrare, di poterci modellare ad immagine di Gesù. Anche tu impegnati ad essere un buon amico e a non dire sempre al tuo amico le cose che vanno bene, non dire mai le cose che vanno male, ma impegnati a spingere il tuo amico verso Gesù. Quindi, questo cosa significa? Giudicare i nostri amici? Puntare sempre il dito e dire stai sbagliando questo, stai sbagliando quest'altro, non va bene qua? No. Significa guardare i nostri amici con gli occhi con cui lui li vede. Lui li ha creati, lui li ama. E lui li riprende, ma non li giudica. Lui li modella, ma non li punta il dito contro. È questo che dobbiamo fare gli uni con gli altri. Non ci dobbiamo giudicare, ma ci dobbiamo amare. È proprio perché ci amiamo, proprio perché Dio ci ama, che ci dà i suoi comandamenti, che ci dice come fare delle cose, perché lui ci ama e vuole il meglio per noi. E così dobbiamo fare con i nostri amici. Ora però vi voglio parlare di un'amicizia un po' particolare, che è quella tra ragazzo e ragazza. È sempre un po' un'amicizia strana, no? Un po' un'amicizia scomoda. E per parlarvi di questo vi voglio raccontare una storia. Ve la leggo. C'erano una volta due ragazzi che avevano conosciuto Gesù più o meno nello stesso momento. Vivevano entrambi, venivano entrambi da una vita senza Gesù e si stavano impegnando moltissimo nel lasciarsi trasformare da Lui. A volte ci riuscivano, a volte no. Gli piaceva un sacco passare del tempo insieme, raccontarsi tutto quello che vivevano e che avevano vissuto. Si spingevano a Gesù, si spingevano a leggere la Bibbia, a vivere le cose con lui con franchezza e trasparenza. Un giorno però le cose cominciarono a cambiare. E la ragazza si accorse che qualcosa non stava andando proprio come era andata fino ad allora. Cominciò ad avere dei dubbi sulle intenzioni del suo amico e non decise di far finta di niente e a continuare questo rapporto come se niente fosse, ma decise di allontanarsi dal suo amico e in attesa di spiegazioni sulle sue intenzioni. Le spiegazioni arrivarono presto e il suo amico le disse che per lui le cose erano cambiate e che non la vedeva più come prima, ma per lui era qualcosa di più. Lei non provava lo stesso per lui e perciò decisero di allontanarsi per un tempo, di non sentirsi e di non vedersi, certi che Dio avrebbe rimesso a posto le cose. Una pensava che sarebbero tornati amici e l'altro pensava che si sarebbero sposati. Abbiamo capito, siamo io e Mario e avete visto come è andata a finire. Vi ho raccontato questa storia non per essere sdolcinata, per true love, l'amore, raccontiamo la nostra storia d'amore, no. Ma perché attraverso questa storia possiamo imparare tre cose. Noi abbiamo imparato tre cose e ora ve le voglio dire. La prima, non lasciare spazio a fraintendimenti. Cosa significa? Cosa significa? Se hai un amico dell'altro sesso, se sei ragazza e un amico maschio al contrario, non essere troppo apprensivo, troppo attento, troppo pieno di effusioni, baci, abbracci, non lo so, ingarbugliamenti. Non lasciare spazio all'altro di fraintendere. Noi non l'abbiamo fatto. Quando le cose hanno cambiato forma, noi siamo stati chiari e trasparenti. E questo ci ha benedetto moltissimo, sia nella nostra amicizia che nel nostro matrimonio. Perché quando abbiamo capito che le cose non erano più le stesse, ce lo siamo detto, abbiamo scelto. Poi, non lasciare spazio a diffusioni, perché il tuo corpo è il tempio di Dio. Cosa significa? Che tu devi avere rispetto del tuo corpo, perché il tuo corpo è il posto dove Dio abita. È il corpo del tuo amico o della tua amica, è il posto dove Dio abita. Abbi rispetto di questo. E non sto parlando solo a persone single o a persone... Sto parlando a tutti, sto parlando a persone singole, a persone sposate, a persone fidanzate. Abbi rispetto, anzi, quando sei fidanzato o sposato, devi alzare di più la guardia. Non è che tu dici, mo, tutto sto casino, mo, ci siamo fidanzati, ci siamo sposati, ma sposati proprio, mo, tutti questi fatti non so più a me. No, quando ci siamo sposati, ancora di più dobbiamo avere rispetto dell'altro, perché il nostro corpo appartiene all'altra persona. E dobbiamo avere il rispetto dell'altra persona, dobbiamo dargli il nostro corpo come un dono di esclusiva, perché Dio ce l'ha dato per questo, per darlo come dono in esclusiva a nostro marito e a nostra moglie. Quindi anche qualunque tipo di cosa, non chiamare amore persone che non sono il tuo fidanzato o la tua fidanzata anche per scherzo. Non farlo, non è una cosa divertente. Cioè a me non farebbe piacere se mio marito chiamasse amore un'altra ragazza. Due. Sii sincero. Cosa significa? Hai delle amicizie che non rispettano, non rispecchiano proprio quello che Dio pensa? Te ne rendi conto? Hai delle amicizie in cui usi l'altra persona, usi le altre persone per colmare il tuo senso di solitudine, per ricevere delle attenzioni che possano colmare quel vuoto che è dentro, per sentirti più carina, più carino, per sentirti apprezzato. Però sono solo delle amiche, sono solo delle amici, Cioè, se fraintende è colpa sua. Cioè, io non ho fatto niente, le monto solo un messaggio, mille messaggi. Non è colpa mia, Porta luce nelle tue amicizie, limitati. Cerca, colma il tuo vuoto con Dio. Lui non lo puoi più togliere. Cioè, quel vuoto poi è a forma di Dio. Tu hai voglia di mettergli le cose e le altre cose. Non lo puoi colmare. Colmalo con Dio e vedrai che ti sentirai appagato e non avrai più bisogno di tutte queste cose. Anzi, sarai sicuro di avere delle amicizie intorno a te sincere, su cui puoi contare quando ne avrai bisogno, perché ne avrai bisogno. Però sai che di avere intorno amicizie sincere e vere, che non sono amicizie mezze così. Quindi non ti fare scudo della parola di Dio per rimorchiare. Senti. Una parola per te. Ti devo dire proprio una cosa che mi ha detto Dio. Sei bellissima. Ah, lo dice Gesù. Non c'è bisogno che lo dici tu. Anche rispetta il momento della vita spirituale delle persone che ti stanno intorno. Se vedi che una persona è al suo primo amore con Gesù, è appena entrata in chiesa, sta conoscendo ora Gesù, fatti da parte. Non mandare troppi messaggi, anche se la tua intenzione è quella di incoraggiare, però stai facendo male perché stai lasciando che la persona dipenda da te e non da Gesù. E questa è la cosa più sbagliata che potresti fare per il tuo amico o per la tua amica. Non li stai volendo bene così. La stai facendo diventare dipendente da te o lo stai facendo diventare dipendente da te. Ricordiamoci, fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come un velo per coprire la malizia. Non facciamolo. Non piace a Gesù. 3. Sii trasparente. Cosa significa? Sii trasparente. Stai vivendo un'amicizia che lo sai che non è più un'amicizia, cioè tu provi qualcosa per quest'altra persona, non riesci più a stare senza di lui, senza di lei, sai che questa cosa sta diventando un'altra cosa. Prega, 1, digiuna, 2, prendi coraggio e vai a parlare con questa persona. Però vi voglio dire una cosa, quando andrai a parlare con questa persona, quando Mario è venuto a parlare con me, lui è rimasto fermo nelle sue intenzioni. Lui ha preso coraggio e ha lasciato nelle mani di Dio questa amicizia che gli costava tanto. Cioè, noi stavamo sempre insieme, a noi ci costava non avere più questa amicizia. A me mi costava non avere più questa amicizia. Però Noi abbiamo fatto questo, certi che Dio avrebbe messo le cose a posto, perché nella Bibbia c'è scritto che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto di Dio caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Se non vuoi lasciare andare quell'amicizia, vuol dire che non ti stai fidando di Gesù. Non ti stai fidando, perché te la vuoi tenere tu e fare come dici tu, e questo porterà solo un gran caos nella tua amicizia con questa persona, perché non sarà più la stessa, perché stai vivendo un'amicizia ipocrita, perché lo sai che non è più un'amicizia, però la stai vivendo comunque come un'amicizia. Quindi farei un gran caos nella tua vita, nella vita di questa persona, e non farete altro che distruggervi. Però rinunciare, mettere nelle mani di Dio questo, ha fatto sì che Mario fosse integro davanti a Dio, che facesse quello che Dio piace, quello che piaceva a Dio, e ha messo me nella posizione di dover prendere una scelta. Io mi sono trovata costretta a prendere una scelta, perché io mi sono trovata davanti alla scelta. Se io non ho più questa persona nella mia vita così, o la ho come fidanzato e marito, o non la ho più. Cosa vuoi fare? Se Mario avesse continuato a mandarmi messaggi, a uscire con me, io avrei detto, vabbè, tanto la posso avere lo stesso questa persona. Magari avrei pensato così. Mi avrebbe fatto più comodo. Invece lui mi ha messo con la sua integrità in una situazione scomoda in cui io mi sono dovuta fare due domande. Anche se io magari non ci avevo pensato, per me era un fratello, un amico. Però io mi sono chiesta, sono disposta a rinunciare a questa persona? Io non ero disposta a rinunciare a questa persona, ma non volendo rinunciare, sono stata costretta a prendere una scelta, una decisione, che è stata quella di stare con lui. E noi, dopo un mese che stavamo insieme, abbiamo deciso di sposarci. Subito. Tu dici, ma già deciso di sposarci? Sì, se ti metti insieme a una persona, vuol dire che ti vuoi sposare. Cioè, se stai seguendo il mio ultimo consiglio, sii trasparente, e stai andando a quella persona a dirgli che è di più di un'amica, significa che te la vuoi sposare. O te lo vuoi sposare, altrimenti non glielo dire. Perché cioè, questo, il fidanzamento è in vista del matrimonio, cioè non è a fare la prova dei meloni. Cioè a noi così ci piace fare le prove, i meloni si comprano a mula, si dice che i meloni si comprano a prova, perché non è che li puoi aprire, fai così, bussi sul melone, boh, è buono, lo compro, provo. Così, no, non stiamo facendo la prova dei meloni. Se ci mettiamo insieme è perché ci vogliamo sposare. Io ho finito e ora voglio pregare. So will you be my